sfruttamento, violento, perdita del lavoro, perdita della casa, perdita di diritti, perdita di dignità. È successo anche a me. O forse non mi è successo, ma non importa, io ti credo. E affrontiamo insieme, la gestiamo a partire da noi, la autogestiamo. Benvenute, benvenuti al terzo incontro delle lavoratrici e dei lavoratori. Della nostra voce, torniamo in diretta. Ciao dottor Io e bentornata da Dama. Buon pomeriggio a tutti. Tutte, sono le 14:41, un numero palindromo per ricordarci che i contadini arrivano sempre quei 10 minuti dopo, però arrivano sempre, non c'è chance. Arrivare arrivano sempre, quei 10 minuti dopo però non è detto. No, però... abbiamo avuto enormi problemi tecnici, come direbbero dalle parti nostre. Oggi, cioè prima c'eri anche tu, non far finta di nulla, Dama. Non è che ne erano enormissimi, diciamo la verità è che a questo incontro al primo la sono andata io, le mie registrazioni fanno cagare. No, ecco, però ho spiccato. Hanno un bellissimo senso, quindi comunque le riproporremo per tutta la puntata. Sì, perché abbiamo lanciato la Dama, abbiamo capito che la Dama non è portata per le intercettazioni abusive. Cioè sono meglio le interviste vere e proprie. No, dovremmo dotarla di qualche... ausilio. Qualche ausilio tecnico. Ah, tu dici quelli in cui devi mettere quelle cose che si chiamano soldi? Esatto. Ah, ma noi no. Oppure qualche amicizia nei servizi segreti. Ah, non so. Tu dici? So come sei messo. Ma... che io sappia male, però qua non ha mia soldi, non ha mia niente, ma il muro è dotato di un registratore, io domando con il mio telefono scaccione, perché il muro ha un telefono scaccione e basta. Vabbè non perdiamoci in queste quisquiglie. Care amiche, cari amici, bentornati, questa è la puntata numero 28. Come i giorni del ciclo, come non lo so, i giorni di febbraio. Esatto, e quindi le dedichiamo a tutti quelli, coloro che sono nati in febbraio e a tutti coloro che in questo momento hanno un ciclo. Ed essendo dai una puntata speciale, che 28 è un numero, un febbraio speciale, ma boh, sarà una puntata un po' diversa. Cosa ci abbiamo oggi che non abbiamo mai avuto e non avremo mai più? Beh, assolutamente ospiti zero. Animali in diretta? No, li hanno forse qualcuno sotto il tavolo, forse insetto, sicuro sicuramente un po' di acari qui della fritto polvere. Siamo pieni, allora, di ragni. Settimana scorsa abbiamo avuto la musica in diretta e quest'oggi non so, ci saranno boh, Metallica. No, quest'oggi, ma non possiamo dirlo adesso perché avremo di quelle grandi sorprese. Può darsi che abbiamo un teatro in diretta. Ah, oggi ci portate a teatro? Oggi vi portiamo a teatro. Che bellezza! Che bellezza, senza tempo, e chissà cosa andremo a vedere, chissà quanto durerà. Più che altro ad ascoltare. Chissà chi saranno gli attori. Però prima di andare a teatro parleremo di due cose soprattutto. Muro, sei preparato? Di che sono cosa? Assolutamente preparato. La prima, in ordine cronologico, è quella che ci ha appunto introdotto la nostra introduzione, che tu hai spiato, registrato e oggi pubblicato qui. Sostanzialmente mi sa che grazie anche ai tuoi racconti digitali e dal vivo andremo a Milano, o meglio torneremo a Milano, perché settimana scorsa c'è stata la 3 giorni delle lavoratrici e dei lavoratori, la 3 giorni tipo transeuropea, non mi ricordo, esatto. Una roba... E poi, cara mia, visto che adesso sono io, faccio una domanda a te, settimana prossima cosa succede? Oh, non lo so, cosa succede? Cosa succede? Tu lo sai, io non sono mai preparato. No, va bene il 25 aprile. Non mi ricordo ancora la data. Giusto, il 25 aprile. No, quello succede. Pasqua, Pasquetta. Pasqua e Pasquetta succedono pure. Risorge qualcuno. Sì, chi lo sa. Stai dicendo ancora dopo. Ancora dopo, amici miei. Allora lo so. Si parla del primo maggio? No, dottor Io, sei andato troppo in là. Fra il primo maggio e il 25 aprile c'è l'incontro generale di Genuino Clandestino. Vero, non fate i vaghi, paraculi, guarda che paraculi con cui, e insomma, cosa è successa, una cosa buffa, perché prima ancora di chiamare coloro che ospiteranno l'incontro, cosa che mi auspico che faremo settimana prossima, appunto, per introdurre cose come è stato per l'ultimo incontro, tra l'altro, nel Tarantino, che tanto ci ha lasciato come esperienze, oggi ci facciamo raccontare la storia di Genuino Clandestino, però ce la facciamo raccontare da un personaggio un po' strano, un po' buffo, un po' molto simpatico, che ci aiuterà a comprendere. Sempre presente, però. Sempre presente nei nostri cuori e nelle nostre anime. Quindi, boom, boom, boom, tanta roba. Dottor Io, è ora di caricare una canzonella iniziale, giusto per teletrasportarci a Milano. Ma la canzonella. Ah, i recap. Metti il 2. Metto la seconda parte delle mitiche interviste della Marta. Per farvi capire quello che è successo. Della dama. O chi ha partecipato. Così, uno spunto di riflessione. Poi a seguire mettiamo subito una canzone. Spunti, spunti, spunti, spunti. Perfetto. Pisha. En las manifestaciones gritábamos, sindicales, gritábamos unión, acción, autogestión, como uno de los gritos centrales de guerra. ¿Cómo se dice? ¿Cómo está aquí? Si la ITEJA, como vous le savez peut-être, les récupérations d'entreprises en France sont une réalité qui existe déjà depuis les années de 1970-1980. Algunas de las discusiones que estamos teniendo sobre este tema en Argentina y nos traía a América Latina. Muy bueno, voy a hacer lo más breve posible, pero incorporar algunos elementos conceptuales y de la situación del movimiento autogestionado. Αποφασίσαμε να πάρουμε την παραγωγή στα χέρια μας. Στην αποφασίσαμε να συνεισφέρουμε οι υποστηρικτές, αλλάξαμε το αντικείμενο παραγωγής σε φυσικά καθαρτικά. Buen día a todos, a todas, a todos, en la Argentina ahora. Bueno, antes que nada decirles que es un placer para mí, tanto que mi federación me permita darles un poco la experiencia de Argentina. Attenzione, l'esperienza dell'Argentina. Si capiva che erano stranieri. Sì, esatto, erano ben 3 o 4 lingue diverse, ben selezionate accuratamente per voi. Era giusto per far capire che a questo incontro che si è svolto a Trezzano sul Naviglio, in questo paesiello del milanese, dove insomma ha sede la Rima Flow, veramente hanno partecipato persone da varie parti d'Europa e non solo. Quindi. E non solo. Argentina, Grecia, Spagna, Andalusia, insomma, tanta voglio roba. Dire, beh, Frittole. Francia, Frittole, Firenze, Roma, insomma, quindi c'era tanta roba, ma ne parleremo dopo, adesso mettiamo un po' di musica e siamo già al momento, abbiamo basta già la gola parlare. Secca. Pisha. Do you want to hear anything else but mine? torniamo in diretta, sono le 14.52 e siamo meravigliosamente in ritardo. Come al solito. Esatto, non abbiamo dato i riferimenti, bravo dottor, io che ce lo ricordi sempre. Siamo Radio su Contello. Radio... Vabbè, allora fallo tu, me ne faccio. Dai, va davvero? Ma sì, lascialo andare un po', intanto allora, dì tu i contatti, va. Radio Contado lo puoi ascoltare sul 13.59 in AM. Solo se sei a Firenze Nord, tipo. Vabbè. E se no, chiaramente in streaming sul blog di Radio Wombat, che è la nostra madre. Esatto, suprema. Wombat.noblogs.org. Ci possono ascoltare in diretta, tipo oggi. Sì. Oppure. Vediamo in quanti ci Oppure in streaming. Ci sono anche le repliche. Ascoltare le repliche sul podcast. Sì. Abbiamo visto che ne mancano alcune, però vabbè, le sistemeremo. Ci abbiamo 9 ascoltatori. Il venerdì e il sabato. Che bellezza. Quindi insomma, ci potete trovare, la cosa più semplice è il podcast. La mail qual è? Se uno volesse scriverci una mail come migliaia di ragazze fanno ogni settimana, esatto, con la dama. Assolutamente, come io tutti i giorni scrivo a radiocontado@insiberia.net. Forse c'è una questione legata a In Siberia, perché ha una sola B, amiche ed amici, non è In Siberia con due. Perché forse arrivano relativamente tantissime mail, appunto perché molta gente scrive in Siberia. Che abbiamo un sacco di ascoltatori laziali. Esatto. A proposito, grande. Allora, noi mandiamo un abbraccio gigante ai nostri radioascoltatrici / radioascoltatori da Torino, perché appunto a questa 3 giorni di Rimaflow, al di là di tutte le cazzate che sono state dette di politica, ci è arrivata voce che qualcuno ascolta costantemente, non per sbaglio, costantemente la nostra trasmissione, e ci fa i complimenti per la selezione musicale. Mitici. Avremo modo di darvi una chicca dopo. Non per gli argomenti, per la selezione musicale. No, mi raccomando. Ma che gli argomenti due palle. Poi voglio dire. Dite sempre Avremo le stesse modo cose. Di deludervi anche su questo. Esatto. Sì, non vediamo l'ora. Tranquillo. Visto che invece noi andiamo sempre più sui contenuti più che la selezione musicale, adesso tante altre parole per descrivere questa 3 giorni che si è tenuta alla Rimaflow, perché io ovviamente in quanto rappresentante di Radio Contado, ma non è vero, insomma, ero lì di passaggio, mi sono fermata ma solo 2 mezze giornate purtroppo, partecipando a qualche plenaria e a un tavolo di lavoro veramente interessante, anche un po' frustrante. Era l'autogestione dei servizi pubblici. Servizi igienici. Servizi pubblici è tipo un tema caro, l'ospedale, tipo la scuola, insomma, si è un po' capito, insomma, se non c'è una compartecipazione dello Stato, autogestire lì è un po' come togliere una responsabilità dallo Stato. Abbiamo una presa di coscienza magari anche un po' pesante, però insomma c'è stata. Ma io non voglio dare voce agli altri, insomma, a quei pochi che sono riuscita a registrare, ovviamente nelle plenarie, perché così raccontano un pochino quello che è successo e che cos'è la Rimaflow, che la maggior parte di voi magari sa che cos'è questa realtà. Ne avevamo parlato noi, vi ricordate la puntata numero cos'era? Hashtag 1, puntata numero 1, ora siamo alla puntata numero 28, andatevela ad ascoltare, vai. Il nostro obiettivo è arrivare ad essere 330 lavoratori e lavoratrici in autogestione, quanti ne lavoravano sotto casa prima. Questo periodo per noi rappresenta uno dei passaggi più delicati del progetto di Marco. Oggi, dopo 6 anni di lotta all'interno di questi fatti, che sono di proprietà della Banca Mondiale, stiamo per traslocare in un altro spazio industriale. Questi capannoni per noi rappresentano un indubbio valore affettivo. Molti dei miei colleghi e delle mie colleghe hanno praticamente vissuto tutta la loro attività lavorativa all'interno di questi spazi. Tuttavia, questi capannoni hanno delle problematiche strutturali insormontabili, che mettono a rischio la salute stessa delle persone che vi lavorano. Solo per citarne una, il rivestimento dei 15.000 metri di tetti è tutto in amianto. Li abbandoniamo volentieri, questi capannoni. Dalla prossima settimana ci trasferiamo in un complesso industriale che era parte di questa stessa fabbrica. Faceva le stesse nostre produzioni. E dove, quando ha chiuso la macro, 15 di noi sono andati a lavorare fino all'aprile 2018. quando anche lì è cessata la produzione. Torniamo a casa, in pratica, in capannetti nuovi, riscaldabili e più funzionali alle attività che vogliamo svolgere, persino con pannelli fotovoltaici sui tetti, in grado di fornirci tutta l'energia necessaria e anche di vendere l'eccedenza alla rete nazionale. Una fase delicata che però rappresenta una svolta positiva per Rimato, poiché dopo 6 anni di occupazione trattativa con un credito, siamo riusciti ad imporre il riconoscimento del nostro ruolo all'interno di questi capannoni e l'importanza della nostra azione per il territorio. Diverse realtà sociali, fondazioni e privati si sono mosse a nostro sostegno e hanno deciso di aiutarci e di costruire assieme a noi le condizioni per trasferirci nei nuovi capannoni. Sono realtà con storie e verosimilmente scelte politiche lontane dalle nostre, ma con cui condividiamo delle pratiche ed alcuni aspetti etici e solidali legati al lavoro. La proprietà di capannoni non solo non sarà una banca, ma più che una controparte, sarà quasi un partner, sarà un consorzio, ovvero una cooperativa. In questo modo siamo riusciti ad aggiudicarci un capannone poco distante da qui in ottime condizioni. E domani, alle 14, al termine dei lavori, siamo orgogliosi di poter dimostrare questo capannone, perché già da domani saremo in possesso delle chiavi. Chiunque lo vorrà e da venire con noi. Eccoci tornati in diretta, sono le 14.59, quasi precisi, abbiamo al telefono Pietro, a cui diamo il benvenuto. Ciao Pietro. Ciao Francesco, ciao a tutte e tutti. Ciao. Grazie per aver accettato questo invito. E eccoci, siamo giusto, abbiamo introdotto, diciamo, l'incontro che c'è stato settimana scorsa, abbiamo introdotto alcune delle realtà partecipanti e soprattutto abbiamo mandato in quest'ultimo spezzone una breve sintesi della storia della Rimaflow che ha portato ovviamente all'incontro stesso. Quanto ti volevo chiedere io ora era le vostre osservazioni, le vostre analisi una settimana circa dopo questo incontro. Com'è andata dal vostro punto di vista? È stato interessante, partecipato? Sì, direi che è stato molto interessante e molto partecipato. Diciamo che le due cose importanti da sottolineare, che stanno un po' dentro la storia di cui tu parlavi, questo incontro nasce in Argentina come incontro delle fabbriche recuperate, cioè delle lavoratrici e dei lavoratori delle fabbriche recuperate. E da questo punto di vista, anche se in Europa non sono tantissime le esperienze di questo genere, cioè di luoghi di lavoro recuperati in senso stretto, quindi non tutta l'esperienza del cosiddetto workers buyout, cioè delle fabbriche ricomprate magari a prezzo di sacrifici, di liquidazione eccetera da lavoratrici e lavoratori, certo. Di cui molto rispetto, ma è un'altra storia, è un ovviamente. Altro percorso, chiaro. Esatto, al di là di questo quindi è importante che questa rete si sia consolidata, che abbia continuato a riunirsi, che ci siano momenti specifici di scambio, e infatti una delle plenarie era esattamente su questo tipo di esperienze lavorative. Ma la novità, diciamo, italiana, che voi conoscete bene, è che abbiamo insistito come RIMAF, come Fuori Mercato Autogestione in Movimento, perché ci fosse un'apertura a tutto il tema, diciamo, legato al mondo rurale, che significa, certo, sia esperienze di recupero delle terre, diciamo anche in questo caso di occupazione e autogestione delle terre, ma anche di esperienze di cooperative, piccoli produttori che hanno valori ben precisi e che, diciamo, producono, scambiano e ragionano in una maniera che è assolutamente analoga a quella delle esperienze urbane, delle fabbriche e dei luoghi di lavoro recuperati. Anche questa era una scommessa che in qualche modo è stata vinta. Prima di tutto la presenza, appunto, di esperienze come Mondeggi, di Genuino Clandestino, ma anche in altri paesi, in particolare l'esperienza andalusa del sindacato SOC-SAT, che è un sindacato bracciantile e di lavoratori del campo, ma che ha anche molte esperienze di occupazione delle terre e di autogestione. Quindi questo tema si è posto con forza e si è posto proprio in una relazione di scambio con le esperienze urbane, quindi la necessità di non separare questo due tipi di esperienza. Quindi anche da questo punto di vista direi che è un incontro molto riuscito. Sì, grande. Quindi voi siete soddisfatti, insomma, quali sono le conclusioni finali, o ci sono state delle alleanze maggiori o un pensiero per andare avanti o no? Secondo me sì, anche in questo caso sia, diciamo, rispetto alla rete che già esisteva, allargata nel modo in cui accennavo prima. Già sono previsti l'appuntamento internazionale che sarà in Brasile a fine settembre, e l'appuntamento del prossimo anno tornerà nell'Europa mediterranea, probabilmente in Spagna. Quindi l'idea è che questa rete continui a incontrarsi, a sviluppare pensiero e relazioni è molto importante. Ma credo che ancora più importante, io non ho partecipato direttamente, ma tra i workshop, diciamo, più partecipati, oltre a quelle sul lavoro, diciamo, di autogestione legata al mondo sindacale e a quello della riproduzione sociale e dell'economia, diciamo, intrecciata alla questione di genere, ci sono stati due workshop, uno al proseguimento dell'altro, sul tema della distribuzione e delle reti logistiche, non limitate solo all'Italia ma internazionali. Questo è un tema molto importante che può sviluppare qualcosa di più di una semplice relazione, diciamo, politica o di solidarietà, ma può sviluppare un vero e proprio terreno di scambio economico che possa sviluppare l'economia di ognuno, ovviamente nei limiti di alcuni valori che noi tutti condividiamo, quindi quello della filiera corta, del non spedire dall'altra parte del mondo prodotti che possono tranquillamente trovarsi dalla stessa parte del mondo e così via. Però questa possibilità è un terreno tutto da sperimentare. Ma quindi è positivo, nel senso che comunque si sta veramente andando, come vuole questo incontro, verso un'economia altra, verso un pensiero di un'economia condivisa. Quindi, insomma, mi sembra di capire che comunque questi incontri non sono solo parole, ma si riesce realmente a andare poi anche oltre, a creare dei pensieri che poi creano delle azioni che vanno anche poi sul concreto. Sì, direi di sì. Questi incontri rischiano sempre di essere ovviamente molto superficiali. In realtà anche quello che a una prima vista potrebbe sembrarlo, da grandi prospettive. Adesso faccio un esempio. A questo incontro era presente una compagna proveniente dal Kurdistan turco, che hanno un'esperienza diretta in una cooperativa di formazione all'economia alternativa. Ora, qualcuno potrebbe ragionare dicendo: vabbè, c'è stata questa testimonianza, la prendiamo, come spesso prendiamo le testimonianze che vengono da altri paesi interessanti, ma poi che cosa ci dicono? In realtà questa cosa già sta andando avanti, c'è già uno scambio rispetto ad alcune esperienze, rispetto ad alcuni lavori che qui saranno soprattutto sul piano della formazione e del sostegno reciproco di possibilità di svilupparla questa economia alternativa. Però davvero siamo oltre gli incontri, appunto, in cui ci si dicono delle cose, sicuramente arricchiscono, ma rimangono solo su un piano del pensiero. Come dicevi te, qua stiamo parlando di possibilità anche di iniziative comuni, che sono complicatissime in una situazione internazionale come quella di oggi. Beh, chiarissimo. Posso farti un'ultima domanda, Pietro? Quasi, anzi, sono due domande, la seconda delle quali è quasi personale. La prima era chiederti brevemente come sta Rimaflow a 6 mesi dallo sgombero mancato, dalle resistenze ai cancelli e quant'altro. La seconda domanda era appunto un po' più personale, cioè che effetto fa proprio a livello umano sapere che anche dall'altra parte del mondo ci sono persone che approcciano le stesse tematiche perché condividono le stesse difficoltà. E questo lo dico alla luce del fatto, dicevamo prima in diretta, che fra 10 giorni nemmeno ci sarà il prossimo incontro generale di Genuino Clandestino, che sarà in Abruzzo, di cui avremo modo di parlare, eccetera, eccetera. È un modo per noi anche per sentirci meno da soli nelle nostre vite, all'interno dei nostri sbattimenti e a frullare come delle trottole. Vale lo stesso anche per te e per voi, immagino. Certo, tra l'altro qualcuno di noi ci vedremo all'incontro di Genuino Clandestino, perché Rimafro e Fuorimercato parteciperanno, certo, ad alcuni incontri. Allora, per quanto riguarda Rimafro, voi avete mandato una breve storia. La situazione è che proprio l'atto di chiusura simbolico di questo incontro è stato la visita alla nuova sede di quella che sarà la Rimafro 2.0, come la definiamo in maniera un po' scherzosa. Cioè, nell'accordo che si fece il 28 novembre scorso, che era quello che evitò lo sgombero, fu anche quello di creare le condizioni per trovare una nuova sede, e questa è stata trovata. È a circa 300-400 metri da quella attuale, è sempre del circuito Maflo, perché era una fabbrica collegata alla Maflo, e permetterà finalmente di sviluppare, oltre a tutte le attività che sono state sviluppate fino adesso, anche altre, e renderle più, diciamo, stabili e aperte. Quindi, beh, chiaro, per dare maggiore continuità a tutto il progetto, è chiaro. Certo. Che se non è la garanzia del luogo. E se vuoi, scusami, la risposta alla domanda personale è anche questa, cioè vedere persone che venivano da 12 paesi differenti, che si sono fatti questo pezzetto a piedi per entrare nella fabbrica, hanno festeggiato come se fosse una cosa loro, quando magari appunto venivano da Sud America, dalla Spagna, dalla Francia, e si sentivano in qualche modo parte di quella storia. Ecco, io credo che quella festa, quel ballo propiziatorio al suono di una fisarmonica di una nostra amica che festeggia sempre queste occasioni, sia in qualche modo il segnale, appunto, il segno che davvero non siamo sole, non siamo soli, ma che c'è in giro per il mondo tanto da poter mettere insieme, da poter relazionare, e che non è soltanto un pensiero comune, ma è anche un sentimento comune. Questo a me rimane da questi tre giorni. Beh, ti ringraziamo dell'onestà intellettuale, nel senso, bello sentirselo raccontare. Bene, grazie per questo intervento, insomma. Davvero, purtroppo il tempo è esaurito, noi mandiamo un altro paio di contenuti e poi, insomma, speriamo di rincontrarci presto, di tenervi l'attenzione. Grazie Pietro, buon pomeriggio. Anche la vostra radio. Grazie. Ciao, grazie ancora. La prospettiva del lavoro suggestito può essere una soluzione, non la soluzione, per modificare la propria risposta con il padrone. Il mercato ha la sua forza nelle relazioni create in questi anni, relazioni solidali che ci permettono di resistere sia alla recessione sia ai processi di sostituzione da parte del mercato. E proprio in questi ambiti nasce l'idea delle coproduzioni, ovvero la produzione associata tra due realtà che cooperano e si contaminano, condividendo una realtà economica, il cui prodotto è uno strumento politico, il veicolo di un portato specifico. Ad oggi coproduciamo la mano partigiana assieme al collettivo Attivi della Resistenza, che lavora sulla memoria antifascista, la vodka Colontine con il comitato Colontine, che lavora sulle questioni di genere, e il Rinoncello con la CES e Rosario, che è un'esperienza di lavoro che mette assieme persone del posto e migranti. Questa modalità di produzione ci permette non solo di costruire forme economiche, ma anche di ragionare sull'antirazzismo, sull'antifascismo e sull'antifascismo, e di portare la questione dell'autogestione del lavoro all'interno degli altri collettivi. All'interno di questo capannone, sulla porta, nell'altra parte del capannone, c'è un cartello che brevemente racconta il progetto animato e sottolinea che parole d'ordine per noi: antifascismo, antirazzismo e antifascismo. Ma dobbiamo praticarle per imparare cosa significano realmente queste parole. E se il problema è il mercato, un mercato sempre più ingordo, allora è solo produrre, sebbene in modo politicizzato, non è sufficiente. Occorre inserire le nostre produzioni all'interno di un contesto più ampio, in grado di rispondere ai nostri bisogni, prefigurando fin da subito che un altro mondo è possibile, per citare uno slogan di qualche anno fa. Da qui l'idea di costruire assieme ad altre realtà fuori mercato. Fuori mercato è una pratica, è una rete sociale, economica, politica e sindacale, formata da realtà urbane e rurali in autogestione. Un progetto di mutuo soccorso conflittuale che mette assieme esperienze diverse e prova a costruire relazioni di scambio alternative al mercato. che prova a mettere assieme le esigenze di riduzione degli impatti ambientali dei territori con le esigenze di lavoro e di reddito dei lavoratori e delle lavoratrici. Non si tratta di un mercato differente, ma di rifondare antropologicamente le relazioni di scambio. È un processo costituente di potere popolare, come si direbbe in Sud America. Nuove istituzioni di democrazia diretta che partono dal basso e provano a determinare cosa, come, quanto produrre per rispondere ai nostri bisogni. Questa è l'esperienza che rimane. In questi 6 anni abbiamo imparato come non ci sia una modalità univoca nel recuperare una fabbrica o un'attività lavorativa. Ogni esperienza ha le sue unicità, ma ben vedere rappresentiamo tutte e tutte la risposta ad un problema più ampio di impoverimento e peggioramento delle nostre condizioni di vita. Abbiamo provato con questo intervento a sottolineare i valori fondanti del processo animato e a condividere con voi le nostre parole d'ordine. Grazie per l'ascolto. Che c'è poi, resta l'eco dentro noi, se ne dicon di parole, sono schegge di rancore, come artigli di avvoltoi, fredde lame di rasoi, queste parentesi del cuore sono segreti chiusi. Ciao, una donna. Sai cosa vi dico? Se ne dicon di parole. E tu sai che non dici di parole? Io do. Sono una pubblicità. Che parole dici? Che parole sono? Parole d'amore. Parole di odio pieno. Se ne dicon di parole. Non si cazzo. Io non le tollero le danze propiziatorie. Non lo fate nella mia trasmissione. Fatti di una trasmissione forza. So much love. Tu ti fa cagare Giuliano Palma, dimmelo prima. Piace, ai miei colleghi, ai miei compagni piace questo spottino. C'è un regista in lacrime quando scopre che può usare il microfono anche per divertirsi, e quindi ha ascoltato per la prima volta questo dolce spot lasciatoci dal Ehi fu compianto compagno Camicia, che adesso chissà in che latitudine Camicia sta. È laggiù, ogni tanto scrive, tu perché non sei più dotato di strumenti quali WhatsApp, però scrive e si fa vivo, anzi meno se no male. Anche un po' ogni tanto. Ma che dite, insomma. Ma, visto che già prima l'hai fatto il collegamento, insomma, la Rima Flo ha parlato dell'incontro, se un pochino parlato, no, e agli altri li invitiamo a guardare, insomma, sia su Facebook che sul sito. ci possono trovare insomma tutte... rimaflow.it, c'è già un post che stavamo scorrendo prima al telefono con Pietro, in cui Fuori Mercato Rimaflow appunto firma un micro riassunto della Tre Giorni in Sé. Quindi ringraziamo ancora non solo te, cara dama, per i contenuti che hai registrato, ma anche grazie. Pietro, il quale è stato avvisato un po' all'ultimo della chiamata e ci ha fatto molto piacere ospitarlo. In bocca al lupo a tutto il percorso e speriamo di dargli continuità. Adesso cambiamo argomento perché ci facciamo un po' più sciocchi, perché quando arrivano questi personaggi a prendere la diretta ci si fa, scusate, un po' più sciocchi. Allora, vi ricordate il nostro amico Pippo, che per chi non lo conoscesse è un carissimo amico. Pippo chi era? Quello che era sul carretto, povero diavolo, alla manifestazione del 23 a Roma. Ce lo ricordiamo. Ve lo ricordate? Vabbè, è un personaggio molto... Non ce lo posso ricordare, magari vari dei nostri radioascoltatori sì. Vabbè, è un ragazzo che è nato in Svezia una trentina d'anni fa, alto più o meno 1,90, con gli occhi chiari, i capelli chiari e faceva canottaggio. Non ho capito di che Pippo si parla. Vabbè, niente, è un amico. Sostanzialmente gli è stata chiesta una cosa molto buffa, ovvero lo stiamo per scoprire nel contributo, nella chicchetta che mi sono riuscito a preparare fra ieri sera e oggi. Andiamo a sentire un racconto di che cos'è Genuino Clandestino e come è nato Genuino Clandestino. Tutto questo a 8 giorni dall'apertura del prossimo incontro generale. Play. Dai, vai. Telefonica del numero 3. Ma come? Pronto? Pronto, pronto? Sì, pronto. Oh, pronto! Ma qui al telefono abbiamo un super esperto, è lei il super esperto? Buonasera, sì, sono un giovane anziano. Sì, un giovane anziano. Siamo al telefono con un grande amico, salutiamo Pippo. Ciao Pippo, come stai? Ciao, buonasera a tutti e a tutte, molto bene. Molto bene, sei in diretta, o meglio, stiamo registrando per Radio Wombat e stiamo registrando una cosa particolarissima. Questo giro, siccome ci avviciniamo, mancano una decina di giorni, anzi proprio 10, all'inizio dell'incontro, stavo per dire nazionale o yoi, all'incontro generale di Genuino Clandestino, che sto giro dove sarà? Sarà in Abruzzo, tra San Vito Chietino e Lanciano. Vedi che sei un esperto, vero? E insomma, ti volevamo chiedere di costruire insieme, di chiacchierare insieme e raccontare una storia a fumetti in radio, quindi è un esperimento incredibile, di Genuino Clandestino. Ok, e tu ci aiuterai in questo? E sei contento? Sei contenta? Certo, certo. Ringrazia Franco Basaglia. Va bene, ringraziamo sempre Franco. Il motivo per cui puoi fare quello che fai. Una storia a fumetti vuol dire una cosa un po' giovane, una cosa dinamica, una cosa per rompere un po' quei soliti piloti che ogni tanto sai, e soprattutto per catturare l'attenzione di tutti quelli che ci ascoltano, e tutte quelle che ci ascoltano soprattutto, no? Infatti, per essere giovane e dinamico, stacco l'edera mentre ti parlo. Ma guarda che quanto sei contadino! Ma quanto sei contadino! Tu, guarda, magari lo potessimo essere pure noi a Radio Contado. Dove nasce Genuino Clandestino? Che succede a un certo punto? Cioè, a un certo punto ci stavano dei contadini che da 2000 anni fanno il farro, eccetera, e diventa un Genuino Clandestino. Che è? No, dice che a un certo punto c'erano, dice, dei gruppi che si sono sentiti e che facevano dei mercati contadini strani. Cioè, ognuno per i fatti sua, ok? Ognuno per i fatti suoi. Ok. E allora i bolognesi, che sono più smart così, okay, hanno convocato altri due gruppi, che erano i gruppi di Roma e di Napoli, e fu sera, fu mattina... Fecero il primo incontro. Ah, così, ok, bella storia. Siamo arrivati in Abruzzo? No, siamo ancora molto... Che cosa avevano in comune i napoletani, i romani e i bolognesi? Stanno tutti in Serie A? Solo questo? No. No, perché all'epoca non stavano manco tutti in Serie A. Comunque, lasciando queste caratteristiche dell'Italia calcistica, no, in realtà erano tutti delusi per le PAC, per le riforme sulla trasformazione dei prodotti contadini, sull'uniformare i prodotti contadini ai prodotti della grande industria in caso di trasformazione, e quindi decidono che ogni sei mesi da quel momento si sarebbero visti per scambiare delle pratiche. E non solo, mi sa che allargano pure il giro, perché voglio dirlo, solo ne chiacchierano a Firenze, ne chiacchierano, che ne so, nelle Marche, ne chiacchierano in tutto il Lazio, non solo a Roma, e chissà quanti posti nel sud Italia ne stanno chiacchierando mo. Sì, che in realtà i primi incontri sono fra tre reti più consolidate e poi altri singoli. Questi singoli, tornando a casa, cominciano a convocare altre riunioni con altri contadini. E piano piano è nata la rete di Milano, poi la rete di Torino, poi la rete pugliese. Ci sono fatti vari incontri in Puglia, per esempio ci sono stati due incontri di Genuino Clandestino. Nel Lazio ce ne sono stati tre. E in Toscana? E a Milano ce ne sono stati due. In Toscana ce ne sono stati due. Vedi che noi toscani siamo sempre molto orgogliosi di questa cosa, ce la rivendichiamo. Soprattutto voi toscani. Sì, sì. Senti, mi sta guardando malissimo. No, sentimi un attimo, ma abbiamo detto prima, che cosa vuol dire far contadino, essere contadino nel 2020 quasi? E che mo dice a me che lavoro in ufficio, perché no. Io l'ho contadino, no? No, ma scusate, ma tu hai parlato. Tu sei l'anello di congiunzione fra il contadino e l'ufficio. Che cos'è una PAC? Perché dipendiamo dalle PAC? Che vuol dire andare contro le PAC? Ma è successo che a un certo punto hanno staccato quello che producevi dai contributi che prendevi. Quindi i contributi li prendevi solo in base a quanti ettari avevi. E quindi questa cosa ha fatto degenerare tutto il sistema contadino, e quindi c'è stata una concentrazione di terre da paura. Certo, perché se io non mi posso permettere di andare a vivere in campagna perché non mi posso permettere la terra, che faccio? Vado a fare l'operaio, come diceva Troisi. Sì. Sì, la questione di fondo era, all'inizio non era neanche questo, cioè era proprio il fatto che io per portare una torta a scuola rischiavo una multa per la torta per il compleanno di mia figlia che avevo fatto io. Cavolo, auguri. E questo per significava banalmente uniformare le regole di trasformazione dei grandi a quelle dei piccoli, che ovviamente non era mai stato così nella storia. Ho capito, è un casino, perché comunque... cos'è? Comunque è un casino, perché a sto punto iniziano questi a organizzarsi, iniziano a fare i mercatini, e cerchiamo di arricchire un attimino per non esagerare in tutto questo, però cioè, entra anche di mezzo la politica, perché qui c'è di mezzo l'accesso alla terra, rivendicazioni, garanzie partecipate, mutuo aiuto, cioè c'è molto di più che fare il contadino ognuno per i fatti. Il colpo gobbo è stato in Val di Susa, perché in realtà in quel momento, che è stato un momento molto, se vogliamo pure fammi fare il sentimentale, toccante, bello, il Genuino Clandestino decide, ma fammo una cosa strana, fammo strano. Perché non diventiamo un movimento strano, di quelli strani di cui non si è mai parlato, senza strutture, senza cose, e nel diventare un movimento perché non lanciamo una nuova campagna oltre la nostra nascita per la libera trasformazione dei prodotti contadini, perché non lanciamo una campagna che si chiamerà Terra Bene Comune sulla ripresa delle terre. Ma ci dice e poi qualcosa. Da lì sono cominciati tre progetti. Da questi tre progetti, uno della Dormì e un altro è stato Caicocci e un altro è stato... Dai, dillo. La Valle dei Casali. andava detto per dovere di cronaca. Vabbè, vabbè, ci sta. Sentimi un attimo. Alcuni sono ancora vivi a tutt'oggi. Dai, salutiamoli. Li salutiamo. Non faccio nomi. Non facciamo nomi. Ciao Mondeggi, ciao Valle. Ciao. Ciao. Senti, a sto punto ci mancano veramente pochi minuti per non arrivare a ammorbare le radioascoltatrici che girerebbero subito su Radio 105 anziché la nostra favolosa Wombat. Mi spieghi un attimino che ci... fai una domanda scomoda. Faccio una domanda scomoda? Ma in che rapporti stanno ste persone che sono lontane ma sono vicine, fanno la stessa cosa ma quasi quasi si conoscono a stento, oppure non ho mai visto casa tua? Non è vero, tu hai visto casa mia, sei un finto. Comunque, a parte questo, signori amici ascoltatori, no, in realtà nel corso degli anni ci sono stati vari esempi di come questo essere movimento, ma esserlo strano, o questa voglia di vedersi nonostante le limitazioni della propria scelta di vita, comunque ha dato dei frutti. A parte l'esempio classico di Mondeggi di cui sopra, però immaginiamo tutto il lavoro che si è fatto post terremoto a Bolognola per la ricostruzione di alcune stalle, piuttosto che la raccolta delle arance che si è fatta in Calabria per rispondere a degli attacchi comunque abbastanza mafiosi. Chiaro. Ovviamente si va piano, però anche questi incontri che alcune volte rischiano di sembrare ai più pallosi, in realtà sono dei piccoli semini, e noi che veniamo da sto mondo diciamo che i piccoli semini sono sempre delle piccole speranze che qualcosa cresca. Beh, chiaro, anche perché se no smettiamo di mettere i semini, andiamo alla Coppa al volo a comprare direttamente il prodotto finito. Però sto giro non ci fa tanto comodo. Senti, ma perché in Abruzzo? In Abruzzo ci vado, te? No, anch'io ci sto andando, però perché in Abruzzo sì e non si è fatto in Trentino o che ne so, a Poggi Bonsi, insomma. Ma di solito il criterio racconta è che ci sono rete nuove che vogliono proporsi per ospitare un genuino clandestino, hanno la priorità le reti nuove perché... Perché? È più volte stato uno stimolo a allargare il loro mercato, a impegnarsi di più anche dal punto di vista politico. Cioè, storicamente è sempre andata così. Okay. E magari chi lo sa, magari anche in futuro, invece di fare un doppio giro da una realtà che l'ha già fatto, si andrà in una nuova realtà. E quindi ecco perché se va lì. Senti un attimo, ma la arrosticini li fanno buoni? Buoni? Con le patate o senza? Oh, bravi ragazzi. Senti Pippu, questa prima esperienza radio contato al telefono ti è piaciuta? Che è una televendita? È certo che è una televendita, racconta fumetti, dobbiamo proporre il meglio. Secondo te, se tu fossi un lettore di fumetti, te l'ascolteresti volentieri quest'ultimo prodotto? No, guarda, mi stai spaventando, sto chiamando il mio avvocato. Sei uno spettacolo, grazie mille della tua partecipazione, caro Pippo. Ci vediamo in Abruzzo a sto punto. Un abbraccio, ci vediamo in Abruzzo, carissimi. Dai, tutto lo staff. Sarà fatto, guarda, è qua che se la ride accanto, anche se non è vero, sicuramente se la riderebbe fosse stato qua. Radio di alta qualità. Un abbraccio gigante a Pippo e grazie della storia fumetti genuino clandestino, volume 1. Un abbraccione. A presto, baci. Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Sempre lì, lì nel mezzo, figa ce n'hai, stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta ne è del dieci, che peccato. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. E questa la dedichiamo agli amici di Torino che ci fanno i complimenti per la musica. È tutta per voi. Una vita da mediano, da farci perdere gli amici in radio ascoltatori. Diciamo che sono uno specialista nell'accumulare credito e bruciarlo subito dopo. Soprattutto se mi fanno specialista in lavorando come oriali, anni di fatiche, botte vinci, e a volte vinci anche i mondiali. A parte la selezione musicale, grande. Bravo, bella intervista. Vi posso dare una notizia flash, bomba, che questa canzone l'aveva chiesta Pippo. Quindi ho solo accondisceso un desiderio di un carissimo amico. No, vabbè, forse salviamo la faccia. Allora, ai nostri occhi, Mulo cambia un po' e ritorna un po' il buon Mulo di sempre. Sì, anche perché spero di avervi lasciato delle chicche musicali per il futuro. Però. Insomma, adesso io lascerei i nostri radioascoltatori con una chicca teatrale invece che musicale. Beh, adesso musicale teatrale. Adesso arriva tanta roba, perché qualche mese fa, ormai sono passati almeno un paio di mesi, chiediamo scusa ai nostri forse attori. Forse anche tre. E abbiamo registrato qua negli studios di Frittole, abbiamo registrato questo live, questo teatro che appunto si chiama, come si chiama? Recinzioni, giusto? Mm-hmm. Sì. E sostanzialmente con gli amici del Teatro Contadino Libertario, che avete già avuto modo di conoscere in passato, ospiti di passaggio, contributi, eccetera. Nulla, ci hanno regalato questa chicca, oggi ce la vogliamo giocare perché, lo diciamo la verità, perché avevamo un ospite che ci ha pisciato all'ultimo e quindi siamo stati un attimino costretti, non senza gioia, a rintanarci in conto. Perché li stiamo rimbalzando da non so quando, continuiamo a dire vi mandiamo e poi non abbiamo mai tempo. E quindi o due piccioni con una fava o due miserie in un corpo solo. Allora lasciamo i nostri radioascoltatori in compagnia del radioteatro e noi ci risentiamo per gli ultimi 5-10 minuti conclusivi con Rassegna 20. E dai, buon ascolto, buon teatro. In una città, guarda bene come c'ha, conciati la metropoli, belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano, e dicevano, quelli vengono dalla campagna, ma ridevano. Già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli, con la faccia di cera, con la faccia di cera. sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre e le fabbriche ci profumano anche l'aria colorandoci il cielo di nero che odora di morte. Ma il comune dice che per ora ci dà la nevrosi è di moda, chi non l'ha ripudiato sarà. Ah, io non respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù e non viene su. Vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse un albero, sì è un albero di 30 piani. No ragazzi, incredibile. Non so se è un sogno o un incubo, ma finalmente ci siamo. Ma è cominciato davvero? Sì, ci siamo ragazzi. Se mi avessero detto che la prima nostra volta alla radio sarebbe iniziata con Adriano Celentano, no. Mi sarebbe messo a ridere, invece ho visto, è bellissimo. Ma siamo on the air, come si dice? Online. No, lo so, come si dice. Insomma, chi siamo? Ecco, la prendiamo anche di chi siamo. Vai, via. Perché non ci vedono, almeno non ci vedano. Un pochino di serietà solo all'inizio. Solo all'inizio. Vai Emiliano, no? Te sei quello più... il volto... Che tu vorresti dire che sono quello più serio? Più serio. Si fa conti dopo. Allora, buonasera o buongiorno, non so più nemmeno che ore sono. Siamo qui, siamo il teatro... Contadino... Libertario. No, ridillo meglio Davide perché ho libertario. Visto... Libertario. Ecco, libertario. Teatro contadino libertario a Radio Contado, signori. Allora, perché teatro contadino libertario? Come perché? Perché siamo contadini. Siamo teatranti. E anche un po' libertari. Diciamo. Siamo libertari. Siamo contadini. Per quanto ci è permesso, siamo libertari. E allora, forti della nostra fantasia e forti di queste tre certezze, abbiamo deciso di chiamarci Teatro Contadino Libertà. Ci si poteva chiamare anche contadini teatranti anarchici, ma era più suonava peggio. Insomma, ma il concetto poi alla fine è quello. E perché? Perché siamo qui? Anche. Siamo qui innanzitutto perché ce l'hanno chiesto e noi... perché dire di no? Ma ci piaceva l'idea di partecipare a una cosa del genere, non avevamo mai fatto, e si penso che lo si senta, la radio fino ad ora, quindi... È sempre stato un sogno, dai, diciamolo pure, è sempre stato il nostro sogno di fare teatro per radio. Tanto si dice, si fa, poi non si è mai fatto, ora abbiamo l'opportunità, l'abbiamo colta al volo. Teatro per radio, signori, che... Non possiamo dire che siamo i primi che gli è venuto in mente di fare una cosa del genere, ma siamo sicuramente, ma siamo sicuramente gli ultimi. Dopo di noi però finita. No, però siamo i primi a fare, diciamolo subito, vabbè, oggi faremo partiamo subito a bomba, noi facciamo un esperimento trascendentale, perché non solo facciamo radio, teatro alla radio, scusate, ma che teatro? Siamo stati mesi e mesi a scervellarci su quale lettura, su quale teatro, su quale pezzo, su quale pièce del nostro lunghissimo repertorio scegliere. Su chi intervistava chi, su chi diceva cosa. E alla fine abbiamo preso la via più breve e più facile, come sempre, e abbiamo scelto uno dei nostri spettacoli, muto. Ecco, muto. Cioè, oggi per radio noi manderemo il nostro spettacolo muto. E praticamente è un esercizio di meditazione collettiva. Quando diremo via, lo spettacolo dura 27 minuti, per 27 minuti restiamo a immaginarci insieme questo spettacolo. Qualche suggerimento lo diamo, tanto che intanto il titolo, almeno che gli spettatori, gli ascoltatori, scusate, possano immaginarsi almeno di che cosa parla lo spettacolo. Quindi, allora diciamo il titolo: il teatro contadino libertario in recinzioni. Il titolo recinzioni, sottotitolo: una volta era l'uomo e la terra e poi arrivò il confine. Bravo. Bene, però prima di... perché la gente si deve preparare a questo esercizio di meditazione, e allora io direi di lanciare subito una musica, tanto per prepararli, e poi partire con lo spettacolo. Così. Si va così, si dice altre due cose dopo. Sì, poi si dice altre due cose se ci vengano in mente, poi vai. Ma intanto preparatevi. Dai, leviamoci subito sto dente. Vai. Hai capito. Una voce più forte dell'altra parlò dal balcone. Una folla più grossa dell'altra decise il da fare. E venne il tempo che questo paese fu di un solo colore. Una riga più dritta dell'altra chiuse il confine. Due ballerini si ferirono i piedi sopra un filo di spine. Con una gamba più zoppa dell'altra provammo a fuggire. Pelle di un altro colore, mischiammo le vene. Trovati, battuti e portati sopra un campo di neve. Il sangue cadendo sembrò dello stesso colore. Esecuzione o per il dolore che con un braccio più freddo dell'altro stringevo il mio amore. Lei mi disse: sei freddo, fra le mie gambe c'è ancora calore. Cominciammo a fare l'amore davanti ai soldati. Lei disse tremando che vedano come son nati, vedano gli esseri umani come sono nati. Con gli occhi negli occhi dell'altro andammo a vedere due lastre di ghiaccio lasciate dalla bufera, improvvisamente travolte dai primi raggi. primavera. Prese a mirare, e quello più monco dell'altro era pronto a sparare, ma il soldato più muto di tutti si mise a parlare. Fermi, abbassate i fucili, guardateli bene, si lamentano l'uno con l'altro, sono tutti contorti. Ecco che cadono a terra, guardate, sono morti. L'aquila vide la serpe strisciare la neve, i soldati in fila per uno se n'erano andati, noi invece eravamo appena venuti. Eccoci di nuovo, stiamo per iniziare lo spettacolo e quindi vi chiediamo subito di fare un piccolo sforzo di immaginazione. Immaginiamoci dove siamo. Non siamo in un teatro, perché normalmente non abbiamo quasi mai fatto spettacoli in teatro, ma siamo in uno spazio comunque dedicato al teatro, quindi può essere una piazza, può essere una stanza di un posto occupato, può essere un cinema, può essere un qualsiasi spazio dove comunque c'è un qualcosa che sta andando avanti, e noi di solito ci piace, ecco, frequentare questi spazi qui. Ultimamente ci è capitato anche di farlo in chiesa. Sì, però a nostra discolpa dobbiamo anche dire che l'abbiamo fatto davanti ai cancelli in Val di Susa, per bilanciare un po' la cosa, questa cosa della chiesa, sennò poi mi venissero in mente cose strane. Mi è rimasto più impresso in chiesa che davanti ai cancelli. Le sgassate, vabbè, diciamo. Ecco, insomma, vabbè. Allora, immaginiamoci di essere al buio. Sì. Magia del teatro. La magia del teatro parte sempre, quasi sempre, con il buio. Con il buio. Si pregano tutte le persone a casa di spengere i telefoni cellulari. Di spengere la luce. In sala. Spengere la luce. Spengete tutto quello che potete spengere. Ma non il cervello. Il primo, che avendo cintato un terreno, pensò di dire: questo è mio. E trovò delle persone abbastanza stupide da credergli. Fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, quanti assassini, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano chi, strappando i pioli e colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: guardatevi dal dare ascolto a questo impostore! Se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno, siete perduti. Ecco, vediamo che ai lati del palco ci sono due persone di spalle una all'altra. Hanno qualcosa in mano, bastone lungo, non si capisce bene cosa. Uno è moro e sta sulla destra dello schermo, sulla sinistra dello schermo invece c'è un rosso. Ad ecco la musica. I due stanno fermi per ora. Ecco. Iniziano a muoversi. Si guardano intorno. È buio, non si vede niente, infatti anche io faccio fatica, ma l'immaginazione. Cioè, il moro sta proprio fermo, ecco, aspetta. Il rosso invece non si vede proprio, eccolo. Iniziano a muoversi, ah, ecco cosa hanno. Hanno due zappe in mano. Hanno due zappe in mano e si sono messi a zappare, però di spalle uno dall'altro, non si sono accorti che c'è anche l'altro. Tirano un solco. Sì. Sì, ma non si sono ancora accorti che c'è l'altro. Quello rosso mi sembra più... Ecco, si sono scontrati di spalle. Ora si guardano, il moro è educato perché saluta, si scappella. Oh, ecco, infatti, il rosso gli sta dicendo di fare un solco unico, giustamente, e il moro lo fa, sorridono, sono amichevoli, gli sembrano amichevoli. Ecco, il rosso ora gli ha detto qualcosa, tipo, ecco, ma invece di, ecco, lavoriamo insieme, partiamo tutti dalla stessa parte e facciamo questi benedetti solchi. Presumo che siano due contadini. Il rosso è molto contento di questa cosa. Il moro zappa come se dovesse, non si sa bene cosa fa, però zappa anche, sono contenti. Un buon lavoro si dicano, sembra. Cosa? Ecco, ora il rosso sta dando qualcosa in mano al moro, ma non si è capito bene cosa fa. Il moro è partito come se dovesse fare le mille miglia. Ah, sta semina, giustamente, dopo fatti il solco, seminano i solchi che hanno appena fatto. Bene. Sono sempre soddisfatti del proprio lavoro. Sì, ecco. Ora il rosso dice, oh, continuiamo. E lui dice, e il moro invece gli dice, no, si continua ma domani, adesso andiamo a dormire, se ci ha fatto due solchi, sembra... Infatti sono contenti e vanno a riposarsi. Uno si sdraia comunque da un lato del palco, e l'altro dall'altra parte. Stanno dormendo, c'è silenzio, dormono. Ma sta entrando un altro personaggio, un grigio, cioè non solo grigio di capelli, proprio un vestito di grigio completamente, c'ha due pali, due pioli di quelli da cantiere e anche il nastro. Vedo che li ha messi praticamente in verticale tra i due e sta legando un nastro da cantiere. Ecco, ora lo tira, fa un lavorino fatto per bene, fatto a modino, ma ha diviso il palco in due praticamente, con uno rimasto da una parte, il moro sulla destra e il rosso sulla sinistra, sorride, ride beffardo e se ne va. E quelli dormono. E quelli dormono. Ecco, ora vedo dei movimenti. Il Moro si sta svegliando, il Rosso ci mette sempre un po' di più perché si vedeva che gli piaceva di più dormire. Ma ecco, ora invece si alza e... ecco. Ma che è successo? Si sta chiedendo il Moro. Vede questo nastro nel mezzo. Questo nastro che ha diviso praticamente in due il palco. Si sono accorti tutti e due di questo nastro, di questo confine praticamente, che è stato fatto. E il Rosso sta per toccarlo, ma il Moro gli dice no, non lo toccare, che... e gli indica su come se fosse una cosa divina. Ah, e si piegano, si genuflettano verso il confine. Sono quasi fossero contenti di questa cosa, ma in realtà l'ha messo uno da una parte e uno da un'altra. Ma per loro è sacro. È sacro. Tutto ciò che appare, che loro non riescono a spiegarsi, è sacro. Allora... comunque si lasciano amichevolmente, si danno la mano e a questo punto lavora uno da una parte e uno da un'altra. E tirano solchi. Ma sta è entrato ora il grigio. Ecco, è rientrato il grigio. Ma questa volta però non ha quell'atteggiamento beffardo, ingannatore che aveva prima. Mi sembra più accondiscendente, anzi sembra quasi voglia come ingraziarsi. Però uno solo, mi sembra sta girando intorno al Moro, gli sta offrendo qualcosa sì. Da mangiare. Mi sembra mortadella. Qualcosa di molto buono, lo presenta come fosse una cosa molto buona, anche se in realtà forse è una di quelle mortadelle un po' schifose dentro la plastica che si compra nei centri commerciali, quelle quando le apri c'è il puzzo di cureggia, quelle lì. È proprio, sta offrendo quella come fosse chissà cosa e Moro la sta mangiando. Fa come se gli dicesse dai riempiti, qui ce n'è a volontà, ce n'abbiamo quanto si vuole di questo, prendi, ne puoi avere quanto vuoi. E poi aspetta, sta uscendo di nuovo. No. Però c'è il Rosso intanto che li guarda estasiato, dice ma forse questo essere grigio è proprio colui che ha fatto apparire questa meraviglia colorata di confine. Noi lo chiamiamo confine, ma loro non si sa come lo chiamano. Ecco, è uscito. Mi sembra... ecco, si sta, stanno discutendo, però... insomma, a pancia piena. Ecco, rientra il grigio, però questa volta ha un'altra cosa in mano. Una bomboletta spray di panna, una torta, un dolce, un qualcosa di veramente super super super buono, eccola, a volontà. Prenditi pure tutto quello che vuoi, guarda quanto ce n'è, tanto prendi con le mani, non preoccuparti, dai, è buonissima. Ah, dolce la panna dolcissima, prendi, continua a girargli intorno come dire è tutto quello, questo per te, solo per te. C'è, a un certo punto, giustamente mi sembra, il Moro si sta interrogando, ma scusa, ma l'altro di là non gli stiamo dando niente? Dice, no, non preoccuparti, sembra dirgli così il grigio, non preoccuparti, pensa per te, riempiti la pancia, l'altro non ha voglia di lavorare, ma vedi chi è quello là, pensa per te. Ah, vuoi dargliene un po'? Va bene, diamoglielo. Ecco, avvicinati un po', gli fa, gli sembra, lo sta facendo avvicinare e glielo spiaccia sul viso, deridendolo. Ecco. Il Rosso non l'ha presa bene, no? Non l'ha presa molto bene, però è di nuovo uscito, il grigio è di nuovo uscito. Sembra sta preparando qualcos'altro. Ecco, sì, ecco. è entrato di nuovo, questa volta però con, ballando, con una musica che però gli sta facendo giocare, ecco, sta incitando al gioco, gioca, perché non vuoi giocare? Guarda, gli sta proponendo un gioco, gli sta proponendo di giocare a un qualcosa dove si vince sempre, e soldi anche, sta tirando fuori dei soldi e gli fa vedere chiaramente che si può vincere tanti soldi giocando. Gioca, gioca, non pensare a nient'altro, pensa solo a giocare e a vincere, ecco, questo gli sta dicendo. Sì, vedi, poi sta prendendo anche altre cose, gli sta portando, ah ecco, sì, gli porta da bere. Ha buttato via la zappa del Moro. Sì, l'ha buttata via, tanto non ti serve. Cosa te ne fai della zappa? Lasciala fare a quelli là che stanno di là dai confini. Loro sì, magari sono ancora lì a zappare. No, l'ha ripresa. Te gioca. La ripresa. Anzi, ma ci gioca a golf. Sì, vedi, non la usa più per zappare, la usa per giocare. Giustamente ha imparato subito il Moro. Vedi? Eccoci alle patatine. E gli sta portando ancora, come si chiamano, generi di comfort, bere e mangiare. Eh sì, gioco, bella vita, stare bene, pancia piena, tutto quello che vuoi a tua disposizione. La poltroncina, l'ho messo sulla poltroncina. Eccola, con le patatine in mano, guardalo la poltroncina, le patatine. Sì. Ah, eccoci. Cosa manca? Poltroncina, patatine e una boccia di merda da bere. Una bella boccia di roba da bere, dove definitivamente. Ecco, ora sta. Aspetta, ha portato un cartello. Sì. Mentre gli porta tutti i generi di comfort, mette anche qualche piccolo cartello, che, come tipo una centrale nucleare, una raffineria, una miniera, una superstrada, un porto. Ecco, sta piazzando mentre quello gioca, giustamente. Diciamo, valorizza il territorio. Sta attrezzando quell'area lì che si è sviluppata, giustamente. La sta attrezzando. Lo sta facendo sviluppare. Lo sviluppa. Guarda com'è ridotto, però. È quello. Quello pancia, buzzo. Aspetta, gonfio. Cosa sta facendo il grigio? Mentre quell'altro gozzoviglia e si gode tutti il bene, e il rosso è lì che guarda invidioso e non capisce cosa sta succedendo. Sta spostando il confine. Lo sta spostando. È il signore del confine, lui. Certo, l'aveva messo nel mezzo e invece ora... lo sta spostando, restringendo la parte del rosso a vantaggio. Guarda, lo sta restringendo. Sì. Lo ha inventato lui il confine, quindi ne fa quello che vuole. Ecco, mentre l'altro gioca gozzoviglia, si diverte e si è sviluppato, ha bisogno di più territorio, giustamente. Lo sta allargando per lui, a discapito dell'altro, vabbè, poco importa. Ma cosa fa? Ma il rosso continua. Il rosso ora... Continua. Fino ad ora è stato al gioco, non ha subito troppo la situazione, ma a questo punto si ritrova con una striscia di terra nella quale non può fare praticamente più niente. Comincia a essere esasperato. Non può più neppure raccogliere ciò che ha seminato. E intanto dall'altra parte, in quello che era il territorio del Moro, ma che ormai dorme con il buzzo pieno sulla poltrona, il grigio sta impiantando nuove strutture, grandi opere opere di sviluppo, di modernità. Infrastrutture. Il rosso comincia a avere veramente fame. E la fame si trasforma inevitabilmente in odio. E dove va quell'odio? Verso chi si rivolge quell'odio? Verso il grigio? No, perché il grigio è un'entità impalpabile che non c'è. E quindi quell'odio si rivolge con il dito indice puntato verso il suo vecchio compagno di lavoro, verso il Moro. Gli punta l'indice rabbioso contro e gli dice: tu sei la causa di questo disastro, della mia fame e della devastazione di questo territorio. Tu ne sei la causa. Intanto il Moro dorme a buzzo pieno. Ma aspetta, aspetta, rieccolo, è rientrato il grigio, è rientrato il grigio. Questa volta è più nero che grigio. Sì, è come in incognita, ha gli occhiali scuri, un cappottaccio nero. Vuole fare qualcosa di più losco di quello che ha fatto fino adesso. Ma finalmente il rosso alza la zappa contro di lui, forse ha capito chi è il vero nemico, ma no. Il grigio apre la giacca e ha una scritta dove c'è scritto: lui ha tutto e tu non hai un cazzo. L'umiliazione definitiva. Al rosso crollano le braccia, ma aspetta, ecco, gli propone qualcos'altro. Ecco cosa voleva fare il grigio. Gli ha messo in mano una pistola. È come se l'odio del rosso prendesse corpo. Ehi, ma sta dando la pistola anche al nero, al Moro. È certo. A tutte e due. È questo il traffico finale. Il rosso si è messo la pistola nella cintura e si atteggia come un gallinaccio. E che cosa fa? Dice al Moro: tu hai paura che io non rispetti più il tuo cazzo di confine? Guarda che fine fa il tuo confine. E rompe il confine. E senti le bombe, gli elicotteri. È guerra. Ci sono due esseri in campo a questo punto. Uno gonfio di odio e l'altro gonfio di paura e di cibo spazzatura. Ecco, il rosso supera il confine. No, danza quasi sul confine con la pistola. Ha sul volto una maschera, nel senso di un'espressione terribile, e adesso è saltato. Ha invaso. È l'invasione. La minoranza è entrata nel campo nemico. È forte dell'odio, della fame, dell'ingiustizia subita, si accanisce sul nemico e lo distrugge. Bam, bam, bam, bam. Il Moro stramazza al suolo. È un corpo inerte. E il rosso finalmente si accaparra di tutto quello che non ha potuto godere fino adesso. Divora un sacchetto di patatine, si va a prendere un paio di barattoli, si scola una bottiglia di whisky e poi si accanisce sul corpo del Moro. Finalmente è vittorioso, finalmente è vendicato, ecco che grida, si è impossessato anche dell'arma del Moro, è il più forte, si sente il più forte, ma sullo sfondo chi c'è? Sullo sfondo c'è il grigio sulla poltrona, fuma un sigaro in pace e guarda la scena, si gode la scena, il rosso ebro di odio e di vittoria. Ma improvvisamente, come se si risvegliasse da un sogno, guarda quello che ha in mano: due pistole, le lascia cadere a terra, con paura, come se non fossero sue. E si rivolge al Moro, gli dice: dai, basta, ora sei scherzato, ben via, risvegliati, è finito, non volevo. Oh, ma il Moro non reagisce, è morto. Il Rosso è disperato, grida. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I'm too young. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Lo spettacolo è finito. Spero che questo esperimento sia riuscito e ora vi abbiamo dato anche una mano, perché voi pensavate di dovervi immaginarvi tutto da soli, ma ora, questo casomai la prossima volta ci proveremo. Questo, facciamo le cose per gradi. E, sì, allora, spieghiamo un po' com'è nato questo spettacolo. Io mi ricordo è nato su una spiaggia. Sì, è vero, in Calabria. Sì, è vero. Eravamo in uno dei nostri tour in Calabria. E per la precisione eravamo andati a trovare SOS Rosarno, se non ricordo male. E già nel viaggio avevamo qualche idea sul nostro prossimo spettacolo. Lì andavamo a farne altri due che avevamo già da tempo in cantiere, e sulla spiaggia di Nicotra Marina iniziamo a scrivere questo spettacolo. Ora scrivere mi sembra una parola grossa. No, avevamo proprio un quadernino, sì. Ah, avevamo il quadernino sulla spiaggia, senti come si era tipo buono attrezzati da giovani. E si iniziò a pensare appunto a questo spettacolo, come molti spettacoli nati dal Teatro Contadino Libertario, doveva essere rappresentato in giugno in un festival che veniva fatto tempo fa a San Casciano, e quell'anno il tema era la guerra, appunto. Da lì lo spunto dello spettacolo Recensioni, che chiaramente molto spesso la guerra ha a che fare sia con le risorse che con la terra. Sì, infatti si potrebbe chiamare, si chiama Recensioni, ma si potrebbe chiamare land grabbing, neocolonialismo, i semi dei conflitti indotti, poi, no? Sono tutte cose che avvenivano un tempo, perché oggi ormai queste fortuna cose, siamo immuni, non avvengano più. Tipo, per esempio, non lo so, mi viene in mente dall'altra parte del mondo, perché qui figurati, ma dall'altra parte del mondo, per esempio, c'è chi la terra se la prende ancora, per fortuna, non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Brasile, e ne sa qualcosa il nostro Grigio. No, mi viene in mente, proprio per riallacciarsi a questa esperienza che poi vi proviamo a raccontarvi, quasi un po' più di 2 anni fa sono stato insieme a altri compagni di Mondeggi e dei movimenti, diciamo, sociali, popolari italiani, siamo andati a fare un viaggio e abbiamo incontrato la realtà dei Senterra in Brasile. Ecco, aspetta, Giovanni, ti interrompo subito, perché questo ha bisogno di un'introduzione, e io la introdurrei questa cosa, perché i Senterra non si possono presentare così in 2 secondi. No, direi di no. De licença no caminho, quem acredita dê as mãos e vamos embora. Pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado de uma semente que deu vida ao movimento. No broto novo de Macali brilhante, a encruzilhada natalino pôs fermento. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Companheiros que tombaram no caminho serão lembrados sempre pela estrada fora. Nossa vingança é ocupar os latifúndios, já preparando o dia da grande vitória. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de novo viemos reafirmar uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, seus direitos só a luta faz valer. Oh, ecco. Ora, dopo un giusto intro, Giovanni, puoi continuare il tuo racconto. No, vabbè, io mi ricordo con molto piacere, fra l'altro, in una serata che si fece tutti insieme, diciamo, noi gruppo di italiani che si era andati a incontrare il Movimento Senterra, e in una serata da loro io mi ero portato dietro una pennetta con una registrazione di questo spettacolo e fra le altre cose, tra canti, balli, cachassa e musica, si fece anche la proiezione di questo spettacolo, e è stato piacevole vedere appunto che il linguaggio, diciamo, teatrale, il linguaggio di questa nostra rappresentazione comunque muoveva dei sentimenti e delle problematiche che sono comuni in tutto il mondo, chiaramente, perché si parla, eravamo di là dall'oceano e subito la figura di Grigio, la figura dei due contadini che comunque vengono messi l'uno contro l'altro, e l'origine del conflitto che poi si genera è comune in qualsiasi realtà. Il Movimento del Senterra, noi abbiamo avuto poi in seguito tante occasioni di rincontrarci, di parlare, di visitare, e anche l'anno scorso sono stati una delegazione di loro sono venuti qua e sono stati ospiti nei nostri poderi, nei nostri campi, si è lavorato insieme, abbiamo avuto un contatto stretto con questo, e la cosa si ripeterà ancora negli anni, questo intercambio, abbiamo intenzione di coltivarlo e di mandarlo avanti. Il Movimento del Senterra appunto ha una storia lunga, ormai di 30 anni, sono 30 anni di lotta, è una cosa molto grande in Brasile, perché appunto si battono per la riforma agraria contro il latifondo e hanno come pratica principale, diciamo, della loro attività politica quella dell'occupazione, quindi occupano le terre, occupano i latifondi e in qualche maniera esercitano una forma di pressione così pratica dell'occupazione della terra nei confronti di tutti i governi che si sono succeduti in Brasile, sia quelli più progressisti che quelli meno, hanno sempre avuto questa pratica dell'occupazione. Quindi, diciamo che ora non è un momento in cui se la passano proprio allegri, ma neanche prima, ecco. No, diciamo che in questo momento la situazione è più problematica di sempre, perché appunto c'è questo governo di Bolsonaro che appunto ha proprio come obiettivi quello di rafforzare, di rinforzare il latifondo, di rinforzare l'agricoltura fatta di estrattivista, l'agro con gli agrotossici, con appunto le colture estensive di tutti i prodotti che non sono destinati alla produzione di cibo, ma sono destinati all'esportazione e alla realizzazione di profitti per i pochi che hanno in mano la terra. Quindi, insomma, il Movimento Senterra ci troviamo molto in sintonia, diciamo, con tante esperienze contadine, e loro sono, quando sono stati qui, io per esempio ho avuto, pur non sapendo granché di brasiliano, però insomma ho avuto per due settimane una persona che stava con me, abbiamo lavorato insieme, abbiamo condiviso i gesti quotidiani della semina, della raccolta, delle potature, di tutto quello che si fa, dell'accudire gli animali, che sono stati estremamente facili e immediati con persone che appunto questo fanno nel loro territorio. Ma io, grazie a questa esperienza, sono riuscito a portarmi l'acqua in casa, che non è poco, vero? Perché se non ci fosse stato le diritte di Marzio, io ero ancora lì a bestemmiare, senza energia elettrica, vero? E quindi sì. Bene, non so che orario abbiamo fatto, che qui alla radio il tempo vola. Credo che siamo intorno alla nostra, il nostro budget. C'è un budget? C'è un budget, non lo so, sai, qui il tempo è denaro, come tu ben sai. E quindi possiamo anche, che ne so, salutarci? Salutiamoci. E volevo concludere, non so, mentre ero qui che ascoltavo voi e anche un po' me stesso, mi è tornato in mente una cosa che ho appena letto. Sto leggendo un libro sul genocidio fisico e culturale degli aborigeni australiani e mi ha colpito particolarmente un passaggio. E intorno agli anni 50, dopo che appunto gli aborigeni sono stati per secoli sfoltiti, diciamo, sfoltiti in tutti i modi possibili, nelle antologie del Settecento venivano, dei biologi del Settecento venivano messi tra la flora e la fauna del continente, no? E quindi era libera la caccia alla fauna del continente e di conseguenza anche alla popolazione, a quella meravigliosa popolazione indigena. Poi intorno agli anni 40-50 l'approccio coloniale si umanizza un po' nei confronti degli aborigeni e decidano di accettarli come esseri umani. E dal momento in cui li accettano come esseri umani, in cambio di questa grande concessione che gli viene fatta, però la società neocoloniale gli impone delle regole, degli obblighi, in cambio di un piccolo sussidio di sopravvivenza. E questi obblighi sono questi, i primi obblighi fondamentali, sono l'obbligo di censimento, cioè l'obbligo di farsi contare, l'obbligo di nascita, di censimento delle nascite, l'obbligo ovviamente di vaccinazione, l'obbligo di sepoltura, perché nella civiltà aborigena non c'era la tradizione della sepoltura, e l'obbligo di sepoltura soltanto negli spazi consentiti dal governo, e in ultimo l'obbligo di essere codificati dal punto di vista fiscale e quindi di essere tassati. Mi dimenticavo forse il più importante, l'obbligo di scolarizzazione dei bambini. Ecco, attraverso queste strette porticine della civiltà gli aborigeni vengono accolti obbligatoriamente, diciamo, non so quanto sia direttamente inerente con il discorso di recinzioni, ma credo che sia importante riflettere su questi su queste recinzioni che noi ormai noi ci nasciamo e per cui ci considerano umani, allora noi nasciamo già umani, già censiti, già civili, inconsciamente vaccinati a questa, e poi sepolti molto spesso nel cemento armato. Sì. Te pensa che il mio babbo inconsapevolmente stava facendo, quando sono nato, un gesto rivoluzionario, perché stava per essere arrestato perché si era scordato di andarmi a registrare. Ecco perché sei così libertario, Davide. E con questa io saluterei, alla prossima, che non si sa quando, perché sa, il teatro contadino è libertario e in quanto libertario non vi può dare appuntamento. Anche un po' rincoglionito. Sì, questo sicuramente. E ci lasciamo con una bellissima canzone che dedichiamo a Céline. È vero che dalle finestre non riusciamo a vedere la luce, perché la notte vince sempre sul giorno e la notte sangue non ne produce. È vero che la nostra aria diventa sempre più ragazzina, correre dietro lungo strade senza uscita, è vero che non riusciamo.

in piazza maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Ho visto anche degli zingari felici corressi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in piazza maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Sveglia radioascoltatrici, sveglia radioascoltatori, il teatro è finito e le luci si sono accese e quindi questo lo diciamo per noi stesse. E soprattutto abbiamo solo 5 minuti per tutti gli eventi. Ma noi ce la siamo studiata alla stragrandissima, cara dama, caro Drio. E allora. Il primissimo che dobbiamo dire, insomma, per rilevanza è Pasqua. Ma come la Pasqua? Ma che non è un evento la Pasqua. Ma chi se ne strafrega della Pasqua? Abbiamo un sacco di altre cose da fare. Pasqua si dice domenica nel linguaggio dei compagni, perché non esiste la Pasqua, esiste solo il Natale. Dai. E allora si parte a bomba con gli eventi della settimana. Lo zerbino, dottor Io, c'è? Non lo sento. Ah, ok, scusa. Venerdì, attenzione, venerdì c'è il classico mercato in Piazza Tasso. È classico, sì, è tradizionale, sì, è locale, sì. Cosa c'è di particolare? Esatto. Venerdì 19 aprile, meditazione contadina con Gianluca Garetti. Perché la meditazione è una pratica che va alla ricerca dell'equilibrio mentale ed emozionale, da cui anche il corpo trae beneficio per coltivare la solidarietà e la coscienza sociale. Ogni luogo, ogni situazione è adatta per meditare, dal camminare al mangiare, allo stare seduti, al mercato di Piazza Tasso. Oh, e quindi Gianluca Garetti ci guiderà in questo magnifico percorso dentro e fuori di noi della meditazione contadina. Perfetto! Quindi grande venerdì in Piazza Tasso, vi aspettiamo. E poi cosa c'è sempre venerdì? Cosa c'è sempre venerdì? L'abbiamo studiata 2 ore, non me lo ricordo. In Piazza Santissima Annunziata, venerdì dalle 17 alle 19 c'è il presidio per il clima a Firenze. Fridays for Future, number 10. I ragazzi avranno anche una riunione stasera stessa alle 5, fra pochissimo, a cui parteciperemo anche noi con qualche rappresentante. Davvero? Quindi mi raccomando, sì, queste sono le voci che attenzione, mi giungono. Attenzione. Quindi non mancate, perché comunque è un appuntamento che bisogna insomma mantenere, dai, perché è importante anche questo. Sì, assolutamente. Allora, la settimana scorsa ne avevamo un botto di eventi, ci sono stati gli hacker, ci sono state un sacco di cose, ci si avvicina al 25 aprile, già lanciamo l'appuntamento in Piazza Santo Spirito, perché non c'è 25 aprile senza Piazza Santo Spirito e va benissimo. Ma faremo una serie di eventi, dai, questo vabbè non è proprio un nostro evento, però visto che c'è stato un maggiaiuolo fra noi qualche puntata fa e ci sarebbe dovuto stare pure oggi, esatto, però vabbè, ci ha tirato il pacco, ma lo salutiamo caramente. Martedì 30 aprile ore 20 a Popiglio, nota località, dottor Io, dov'è Popiglio? Va bene così, ritrovo cazzi vostri, trovate Popiglio e vi trovate alle 20 in piazza al circolo e sostanzialmente ci sarà la maggiolata, come si dice? Collettivo folcloristico montano, e quella cosa proseguirà il 1 maggio, ma il primo maggio c'è un eventone della Madonna, qualcosa da fare il primo maggio, voi dovete stare in polveriera, perché il 1 maggio c'è la festa Wombat e guai chi manca la festa Wombat verrà marchiato con una W in fronte. E tutti si ricorderanno che quel 1 maggio non c'era. Ma ancora prima del 1 maggio, le ex buon camicia mancherà. Mancherà il 1 maggio. Mi sono accorto ora. Ma dicono che prende un volo per tornare, fa il 1 maggio e torna là. No, però noi avremo. Io insomma, ho sentito delle voci che ci sarà un ospite d'onore in rappresentanza di Radio Comitato. Dicono un certo reverendo passerà dalla festa Wombat. No, ci sto pure io, però, dama. Va bene, il reverendo e tutto. Però ci saremo tutti con la nostra radio, chiaramente. Si caratterizzeremo il nostro banchino. In diretta. Che bella Wombat, 13:59, Radio Wombat, noblog.org, Radio Contado in Siberia.net. stiamo trottando verso i saluti finali, o è una mia impressione? Direi che ci salutiamo perché siamo ben oltre, così lasciamo l'ultima canzone, è un fuori onda sempre tratto dalla Tre Giorni Rima Flow. Boom boom boom. Così boom boom boom in onore a Mondeggi. Tesori miei, tesori mie, ci vediamo settimana prossima. No, ci sentiamo. Sì, no, è vero, perché non te l'abbiamo detto qual era. Ah, perché stavi al cesso quando abbiamo scelto la canzone. È vero. Quindi povero, diciamo Pendulum. Guarda, Dama, sei la solita a mettere queste canzoni. La puoi anche avviare, dottore, io, mentre salutiamo davvero tutti quanti. Ci vediamo settimana prossima. Un abbraccione. Ciao, buona Pasqua a tutti. E Pasquetta. Oddio, l'ha detto. Piglio in provincia di Pistoia. essere qua a incontrare i compagni e compagni. Allora, qui si parla di Mondeggi. Mondeggi è un... è un'esperienza di autogestione sulla terra, su una fattoria dello Stato abbandonata. Mondeggi è un'esperienza di riappropriazione di terre demaniali statali, come ce ne sono migliaia e migliaia in tutta Italia. Per una volta abbiamo deciso di fare un passo avanti. Abbiamo detto che questa terra non deve essere venduta, non deve essere privatizzata, questa terra può dare lavoro diverso, un lavoro autogestito.